Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi ce la prenderemo con lo Stato, o meglio, col modo in cui lo Stato funziona e come affligge i cittadini in Italia. Ci dà lo spunto per questa riflessione l'ultimo libro di Piero Ostellino, famoso giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, che ha appena pubblicato con Rizzoli Lo Stato canaglia, come la cattiva politica continua a soffocare l'Italia. 250 pagine, 19 euro. È un libro in puro stile liberale, come Ostellino, e il quale ci dà qui una spiegazione, sebbene a contrario, di come dovrebbe essere uno Stato liberale, uno Stato che rispetta i diritti dei cittadini, e lo fa appunto descrivendoci il contrario, cioè di come si può atteggiare uno Stato profondamente illiberale, quale Ostellino appare l'Italia di oggi. Perché Ostellino usa questa espressione così forte, Stato canaglia? Lo scrive lui, lo spiega lui, perché la nostra politica, dice, non è più, e da tempo, ammesso che lo sia mai stata, al servizio dei cittadini, ma li ha posti al proprio servizio, e per questo si può parlare di Stato canaglia. E in questo libro Ostellino affronta molti aspetti della società italiana che ci riportano anche a problemi di grande attualità, dall'economia alla bioetica, tutti i temi dei quali discutiamo giorno per giorno, discutendo alla fine intorno sempre a questo tema, quale debba essere la posizione del cittadino e il grado di libertà del cittadino rispetto ai vincoli e agli obblighi che gli pone lo Stato. Quindi certamente questo è un libro politicamente scorretto che esprime una grande libertà di giudizio e anche un notevole coraggio e un notevole anticonformismo. Ci facciamo spiegare le ragioni dell'offensiva contro lo Stato italiano da parte dello stesso autore. Buongiorno a Piero Ostellino. Buongiorno, buongiorno. Piero Ostellino, dunque, uno Stato canaglia, ma la domanda che sorge spontanea a conclusione di questo libro è: ma agli italiani per caso non è che stia bene così? Ah sì sì, agli italiani, o perlomeno a una gran parte degli italiani, sta assolutamente bene così. Tenuto conto che questo Stato canaglia è mezzo corporativo, quindi di eredità fascista, e mezzo collettivista, di eredità comunista, e che il liberalismo in Italia non è mai arrivato, diciamo pure che a buona parte degli italiani sta bene. Senta, lei a un certo punto affronta il tema del rapporto tra la sinistra e il mercato e critica molto perché la cultura di mercato non si è ancora consolidata nella sinistra. Ma e la destra? Non è che anche lì ci sia un grande entusiasmo per il mercato, mi sembra. No, ma la cultura di mercato, che poi in realtà è la cultura della libertà, si usa la parola mercato perché è più facile criminalizzarla, ma in realtà il mercato è un sottoprodotto della libertà, come la libertà di coscienza, di parola, di manifestazione. La libertà di mercato è la libertà di intraprendere, e quindi questa libertà in realtà viene sacrificata sia da destra sia da sinistra, cioè non c'è una cultura di mercato né a destra né a sinistra, proprio per la ragione che dicevo prima, e cioè che la cultura dominante italiana è un misto tra corporativismo e collettivismo. E allora si cerca un alibi magari in formule ambigue come questa che lei ricorda, dell'economia sociale di mercato, che oggi è in grande spolvero, mi sembra. Sì, ma in grande spolvero, ma anche questa è una mistificazione, perché io i dottrinari dell'economia sociale di mercato, cioè Wilhelm Röpke e Ludwig Erhard, li ho conosciuti, ho parlato e ho discusso con loro di questo, ed entrambi hanno detto che l'economia sociale di mercato è un'economia di mercato che interviene ex post per tutelare quelli che eventualmente siano stati danneggiati dal mercato, ma non interviene ex ante, cioè decidendo come si deve comportare il mercato. Nella Germania di Erhard e nella Germania di Röpke il mercato era libero, ma ci si preoccupava che il bilancio dello Stato fosse in ordine e che soprattutto, se c'erano dei danni che venivano provocati dal mercato a chi non c'entrava rispetto al mercato, questi danni venivano riparati dallo Stato. Quindi è una cosa totalmente diversa da quella che viene contrabbandata in Italia. E analizzando proprio un articolo di Erhard, Luigi Einaudi scriveva che la parola sociale in questa espressione non conta nulla, è un pleonasmo, diceva lui, proprio perché l'economia di mercato in realtà poi è sociale come poche altre. Certo che è sociale, per il semplice fatto che l'accumulazione è neutrale, cioè il processo di accumulazione è neutro, è la fiscalità che non è neutra, cioè nel senso che interviene lo Stato a espropriare qualcuno della sua ricchezza o di quello che ha prodotto comunque in nome di una certa classe sociale o di una pretesa giustizia sociale. Ma questo fa sì che si concepisca lo Stato come un ente morale, invece lo Stato non è altro che gli uomini che lo governano, e quindi nel momento in cui ci sono certi uomini al governo piuttosto che altri, l'espropriazione avviene da parte di una classe politica rispetto ad un'altra classe politica e quindi resta sempre un'espropriazione. La crisi finanziaria ha indebolito molto i fautori del mercato e del liberalismo e soprattutto del liberismo, perché si accusa il mercato di qualunque nequizia e soprattutto si riconosce nel mercato la causa della crisi attuale. Allora il suo messaggio come può diventare popolare? Ma il mio messaggio diventa popolare, io non pretendo che diventi popolare, ma mi auguro che in qualche modo lo diventi, prendendo atto che la crisi invece non è arrivata dal mercato, ma è arrivata da una serie di distorsioni del mercato. C'è un eccesso di liquidità messo in moto dalla Federal Reserve americana, da alcune società di intermediazione finanziaria protette dallo Stato. Insomma, la causa è pubblica, non è privata. Poi, dopodiché, mancavano alcune regole e alcuni mascalzoni ne hanno approfittato, ma in un paese liberale i mascalzoni vanno in galera, punto e finito, ma non si mette in galera il mercato, perché non è il mercato che agisce e che pensa, sono i singoli individui. Se i singoli individui commettono dei reati vanno messi in galera. Su questo clima culturale che caratterizza il nostro paese conta molto, pesa molto l'influenza negativa dei giornali e dei giornalisti, una categoria alla quale entrambi apparteniamo. Allora, quali sono le sue critiche ai nostri colleghi? Il giornalismo avrebbe una funzione straordinaria, cioè di critica e di interlocuzione con il potere politico, con la classe politica. Cioè il giornalismo deve essere un interlocutore, non deve essere il maggiordomo del potere politico e non deve essere al servizio di nessun altro che delle persone che comprano il giornale e dei cittadini che ovviamente rivendicano i propri diritti e le proprie libertà. Bene, questa dovrebbe essere la funzione del giornalismo. Purtroppo non sempre il giornalismo italiano è questo, perché mi sembra troppo succubo del potere politico anche in termini soltanto concettuali e culturali, cioè tutto ciò che fa la politica interessa anche quando non interessa affatto i cittadini, perché io credo che sia l'esito della politica che debba interessare i cittadini, cioè quali conseguenze ha la politica sui cittadini. Di queste conseguenze dovrebbe parlare il giornalismo, invece il giornalismo si limita a guardare dal buco della serratura la politica e a raccontarne il teatrino. Ma nonostante questo, e tornando alla prima domanda, lei non crede che ci sia in Italia una tendenza un po' alla resistenza, alla reazione a questa situazione, un po' più forte che nel passato, nonostante tutto? Beh, io giudico dalla mia esperienza personale ed effettivamente io ho un buon ritorno di quello che scrivo sul Corriere della Sera, cioè molti lettori mi scrivono. Per restare al mio libro, in questi giorni, sono passati solo 10 giorni da quando è andato in libreria, siamo già nei primi posti dei libri più venduti, quindi vuol dire che c'è una domanda in questo senso. Però io ho la sensazione che la domanda principale che gli italiani rivolgono al potere politico sia una domanda non di libertà ma di sicurezza, cioè vogliono essere protetti dallo Stato, perché identificano lo Stato, nello Stato il papà o la mamma, cioè qualcuno che fa il loro bene. Lo Stato invece deve essere soltanto un servizio che consente ai cittadini di esprimere le proprie libertà in piena libertà a condizione di non impedire agli altri di fare altrettanto. Cioè lo Stato è un servizio, non è il papà, non è il buon papà, altrimenti cadiamo nello Stato etico e quindi in forme di totalitarismo. Grazie a Piero Ostellino, autore di Lo Stato Canaglia. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato da Ostellino un forte richiamo alla libertà, al metodo liberale, alla necessità di garantire uno spazio di autonomia a ogni cittadino, e quindi vi voglio segnalare a questo proposito due libri che si pongono su una posizione libertaria molto interessante. Il primo è un libro dedicato al tema della disobbedienza civile ed è intitolato Ribellarsi è giusto, teorie e pratiche della disobbedienza civile, un'antologia, è pubblicato dalle edizioni dell'Asino, 14 euro, 272 pagine. Perché ribellarsi è giusto? Perché, spiega nella prefazione questo libro, dagli orrori del totalitarismo agli inganni della società dello spettacolo e dei consumi, il codice dell'obbedienza a un potere con la P maiuscola cieco o al conformismo di una assuefatta omologazione continua a dominare coscienze anestetizzate, anime fiacche. L'imperativo azzardato, continua il libro, è ancora quello di ieri: resistere, disobbedire, separarsi con fantasia, rabbia e volontà da un andazzo intollerabile per provare a immaginare un altro futuro possibile. E qui troviamo poi un'antologia, appunto, tanti brani di letteratura libertaria, dai Quacche fino a oggi, con grandi nomi da Henri Thoreau a Enrico Malatesta, a Gandhi, a Dietrich Bonhoeffer, a Albert Camus, tutti nomi, come vedete, anche di varia ispirazione ideale. E proprio di Albert Camus troviamo nel libro un brano di un libro particolarmente importante in questo filone, cioè L'uomo in rivolta. Altri scritti libertari del grande scrittore francese sono pubblicati in Mi rivolto dunque sono, scritti politici a cura di Vittorio Giacopini, pubblicato da Eleutera, 120 pagine, 12 euro. Questi sono scritti unificati dall'orientamento dello scrittore che scrisse molte cose, molte pagine politiche, a partire dal 1946, anno in cui scrisse Né vittime né carnefici per prendere le distanze in maniera perentoria da Stalin, fino agli scritti successivi, segnati dal grande successo dell'uomo in rivolta, che segnò appunto la rottura con Sartre, la definitiva critica al marxismo, e poi tanti altri scritti in cui Camus manifesta un forte spirito antitotalitario, per esempio quello in occasione dei moti di Berlino Est del 1953, la lettera a un militante algerino del 1955, nella quale auspica una sorta di abbraccio nu fra i francesi e l'Algeria in vista di un destino comune, in occasione ancora dell'insurrezione di Poznan nel 1956, tutti scritti animati, come dice lo stesso autore, da un gusto per la libertà intransigente, cioè che sa rivendicare sempre la giustizia così da riuscire a ottenerla talvolta. La cultura liberale individualista e fortemente diffidente nei confronti dello Stato, di cui il libro di Ostellino è espressione, si colloca in un filone minoritario, ma sicuramente molto combattivo, di cui fu espressione un giurista e scienziato politico liberale torinese, anch'egli come Ostellino, e cioè Bruno Leoni. E questo studioso ha avuto uno strano destino, visse fra il 1913 e il 1967, è stato notissimo soprattutto negli Stati Uniti per i suoi studi davvero pionieristici e molto importanti nel campo del pensiero politico e giuridico. Fu invece dimenticato in Italia e lo stiamo riscoprendo in questi anni grazie al fatto che si stanno traducendo, soprattutto per merito della casa editrice Liberi Libri, le sue opere principali. Adesso esce un nuovo titolo che è Il pensiero politico moderno e contemporaneo, 440 pagine, 22 euro, pubblicato appunto da Liberi Libri. Come nota nell'introduzione di questo libro Luigi Marco Bassani, Leoni è un pensatore della libertà intesa come libertà dallo Stato, e quindi capite come sia vicino al filone di cui poi troviamo le tracce nel libro di Piero Ostellino. In questo libro di Leoni troviamo letture e interventi su temi relativi al pensiero politico, e quindi il pensiero di Croce e di Einaudi, ma non soltanto, l'individualismo, il comunismo, il significato della democrazia, tutti i temi che tornano di attualità anche alla luce delle riflessioni in corso sull'organizzazione dell'economia e della società capitalista. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato, a proposito del libro di Piero Ostellino, di come funziona male lo Stato italiano. Uno dei capitoli nei quali si manifesta maggiormente e con più gravità questo cattivo funzionamento è sicuramente il capitolo dedicato all'università. E vi presento adesso tre libri che dimostrano come ci siano dei modi molto diversi per affrontare una questione nevralgica come quella dell'insegnamento universitario, ma anche in modo molto divertente e interessante. Il primo libro è quello di Nicola Gardini, si intitola I baroni, come e perché sono fuggito dall'università italiana, è pubblicato da Feltrinelli, 204 pagine, 13 euro. Questo è un diario che si legge quasi come un romanzo, sembra una storia inventata ed è tutto profondamente vero, è la storia di uno studioso di letteratura italiana e comparata che racconta le straordinarie difficoltà a seguire la carriera accademica nel nostro paese. L'autore qui è paralizzato dallo strapotere della corporazione accademica che non seleziona certo secondo la qualità o secondo il merito, ma preferisce selezionare in base alla fedeltà e in base all'appartenenza a questa o a quella accordata. E allora, in un momento in cui la carriera accademica del nostro studioso sembra farsi veramente difficile, giunge una proposta sorprendente e inaspettata dall'Università di Oxford, che chiama questo studioso, gli fa in 448 un esame, lo mette a confronto con altri candidati e in poche ore gli comunica che è stato scelto per insegnare a Oxford, dove adesso il nostro autore si trova. E quindi questo è un libro amaro, ma nello stesso tempo divertente per lo stile lieve e molto ironico col quale ricostruisce la propria vicenda accademica, aprendo uno squarcio su come funziona l'università nel nostro paese. In certi punti, anzi, il libro è veramente divertente. come dimostrano queste righe che adesso vi propongo, nelle quali si descrive l'esperienza di una sessione di esami all'Università di Palermo. Un esame per me era qualcosa di serio, una prova difficile, persino paurosa, con cui mostrare non solo quel che si sapeva, ma anche esibire virtù come la chiarezza e la precisione. Gli esami a Palermo erano una fiera dell'ignoranza e dell'incapacità linguistica. Il rito dell'interrogazione è una parodia. Mi viene in mente l'espressione favorita della zitellona dei viceré, una farsa tutta da ridere. Fecaloro si impegnava a sfoggiare i panni del professore Severo. Urlava «Ma cassa isciama?» a ogni studentessa, infatti erano quasi tutte ragazze. Sproloquiava per dei quarti d'ora sulla differenza tra realismo e verismo e poi concludeva l'esame con un 30 o un 28 quando l'iscritta era proprio da bocciare. Anche la Rosi era di manica larga e non bocciava nessuno, ma lei, dopo mille giustificazioni, dopo essersi quasi prosternata ai piedi di una che era la regina degli asini, la vidi dare anche un 26. Io avrei bocciato tutti, molti già solo per gli errori di grammatica e per la maleducazione. Una, in effetti, riuscii a bocciarla. Non aveva preparato gran parte del programma. La faccia tosta di quella ragazza, una piccoletta dal piglio nervoso, truccata come un vecchio manichino, era imbattibile. Quando, per favorirla, le chiesi di parlare di Libertà di Verga, disse che non aveva letto neanche questo romanzo. Però aggiunse, se vuole gli do un'occhiata adesso. Un'altra, alla quale stavo per scrivere un 20 sul libretto, cominciò a piagnucolare. «Professore, la prego, le parlo come una sorella!» E con una faccia da Madonna addolorata tentava di prendermi le mani, perché la sua supplica mi entrasse nell'anima attraverso i pori della pelle. Alcune studentesse si presentavano con i genitori. Un padre, ritenendo che avessi messo la figlia in difficoltà, finito l'esame, che comunque secondo i miei criteri non era andato male, mi si avvicinò e mentre la figlia, con i lucciconi agli occhi, raccoglieva i libri, mi urlò, con tono di minaccia, «Le auguro buon anno, professore!» Un approccio più tradizionale, non più diaristico, ma da saggista, è quello di cui dà prova in modo particolarmente efficace un'altra docente universitaria che presenta il problema complesso dell'università in termini però comprensibili a tutti e soprattutto ci fa capire quale sia la vera posta in gioco nella questione universitaria. Il libro si intitola L'Università Italiana, un irrimediabile declino, punto interrogativo, l'autrice Paola Potestio della Terza Università di Roma, dove è stata anche preside della Facoltà di Economia, è pubblicato da Rubbettino, 212 pagine, 10 euro. L'autrice affronta qua tutti i nodi dell'università italiana che negli ultimi anni, scrive, ha pagato tre pesantissimi pegni. Il primo è quello rappresentato dal sovraccarico di riforme mancate, riforme sbagliate. Il secondo pegno, il forte peso dei condizionamenti di natura corporativa e sindacale, qui si torna al tema sollevato anche dal libro precedente. E il terzo, il livello infimo della competizione politica di questo paese che, aggiunge, non permette appunto di affrontare il tema dell'università come meriterebbe di essere affrontato. E la Potestio quindi esamina le riforme fatte, tentate, abortite, i risultati ai quali queste riforme hanno portato. In particolare analizza l'esplosione del numero dei corsi di laurea, passati dai 1273 del 2001 ai 5363 di 4 anni dopo. Smonta alcune illusioni, per esempio quella dell'autonomia finanziaria, sottolinea la fortissima resistenza di stampo corporativo al cambiamento, indica i problemi più urgenti che l'autrice identifica in quelli della selezione dei docenti, dell'accesso alla carriera e della riforma della formula 3 più 2 che ella giudica un disastro. Infine pone alcuni obiettivi che sono soprattutto quelli di consolidare la valutazione della ricerca e lo stabilire un collegamento fra la valutazione e i finanziamenti in modo da finanziare le università che effettivamente valgano. Il secondo obiettivo che pone l'abolizione del valore legale del titolo di studio e il terzo il superamento della struttura per corporazioni dell'università. Un programma quindi molto ambizioso, sicuramente una rivoluzione, peraltro indispensabile per salvare tutto il paese da un declino che altrimenti diventa fatale. Una formula intermedia fra i due libri che vi ho presentato finora è quella di Margherita Oggero, che è un'insegnante e scrittrice che pubblica Orgoglio di classe, piccolo manuale di autostima per la scuola italiana e chi la frequenta. È pubblicato da Mondadori, 106 pagine, 13 euro. Questo è un appello al buon senso, direi, per restituire fiducia al sistema educativo che non può essere lasciato solo alla responsabilità della scuola e della politica, perché scrive l'autrice che anche le famiglie devono farsi carico, come si dice adesso, per far recuperare per esempio il senso della parola severità. E Loggero svolge qui dei ragionamenti, presenta dei dati su molti temi, per esempio su un tema che a noi interessa, quello della lettura. Serve veramente far leggere i ragazzi e che cosa bisogna fare leggere loro? Sentiamo qual è la risposta dell'Oggero. Leggere libri è, secondo un'azzeccata metafora, un formidabile ascensore sociale che favorisce il salto di classe e permette di liberarsi dagli angusti condizionamenti determinati dal momento storico, dal luogo geografico, dalla situazione familiare e dal caso. Spesso, però, gli insegnanti sono tentati di cadere nel solco del già fatto e comunemente accettato, senza avere la voglia di esporsi alle critiche dei genitori o del dirigente che li teme. Basta dare un'occhiata alle classifiche dei libri più venduti all'inizio dell'estate, quando vengono acquistati i testi che i ragazzi devono, o meglio, dovrebbero leggere nelle vacanze. Sono sempre i soliti, di tutto rispetto, per carità, quasi tutti di grandi, grandissimi autori, ma non i più adatti a intrigarli e stimolarli. Uno a caso, il Fu Mattia Pascal. I rovelli esistenziali di Mattia, la sua desolata solitudine, il bisogno di ricostruire intorno a sé una rete di interessi e di affetti, i suoi dubbi insufficientemente rischiarati dal lanternino dell'intelligenza, quanto possono interessare un dodicenne o un tredicenne? Poco o niente, temo. Eppure a giugno Mattia scala la classifica dei tascabili da anni e anni, e con lui, per una fascia di lettori più giovani, l'immarcescibile Piccolo Principe, melenso come uno sciroppo da discount. Ma siccome il bambinello dai capelli color del grano piace tanto, va bene così. Dalle analisi che vi ho presentato, quindi quella di Gardini, quella della Potestia e quella dell'Augero, emerge un grande senso di sconforto per le condizioni dell'istruzione nel nostro paese. Tanto che, conclude Loggero nel suo libro, si può dire che non siamo più un paese per giovani, perché, spiega la scrittrice, non ci preoccupiamo del futuro dei giovani, che è strettamente legato al livello di istruzione, e quindi diventiamo un paese per vecchi e lo saremo, aggiunge, sempre di più, non solo a causa dell'innalzamento dell'età media, ma anche perché ci manca la voglia di progettare a lunga scadenza. Speriamo che titoli come questi servano a svegliare sull'esigenza di affrontare il tema dell'università e dell'istruzione nel nostro paese. Ma a questo punto, il confettino. Vi presento due titoli adatti per famiglie gattesche, e cioè Il pilota del micio razzo e C'è vita felina nello spazio di Domenica e Roberto Luciani. Sono entrambi pubblicati da Feltrinelli Kid, costano 9,50 euro e sono due libri che ci portano in un pianeta felino, appunto Bumpo, nei quali potranno trovare soddisfazioni gli appassionati di mici. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Giacomo Spunta in regia. Passo la linea a respiro, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.